Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo. Un saluto da K. No, sono io. Un saluto da K. E un saluto vedi da Vedi che Drago. Vuoi subito fagocitare. Ma non è vero. Basta, io me ne vado. Ma perché... no, ma non fare il bambino. No, io me ne vado. No, tu vai bene giusto in questa trasmissione. Perché? Perché ti comporti così, vai bene. Chiedo asilo, vado, devi chiedere asilo. Vado bene, vai infatti bene. Vado via. No, stai quieto dentro. Sono cose importanti di cui dobbiamo parlare. Tipo? Dobbiamo parlare dell'arbitro Byron Moreno. Diciamo il pivello della settimana o delle settimane, insomma. Ma cos'è? Calcio, roba di calcio. Sì, l'arbitro Byron Moreno, quello di Italia-Corea, no? No, quello che quando? Si era fatto Italia, pagare Corea, un po' di anni 50, fa, quella lì. Ma no, Corea-Giappone, il mondiale del 2000 e 2004. Ma chi se ne frega? T'ho detto, il calcio è una roba che è inutile. Vabbè, comunque, questo Byron Moreno, che è diventato famoso in Italia per essere un corrotto, adesso è ancora più famoso perché è stato beccato con 6 kg di eroina nelle mutande all'aeroporto JFK di New York. Ah, l'hanno beccato? Eh sì, l'hanno beccato. È strano, però, la mutanda è un bel nascondiglio. Scusa, direi proprio di no. Se hai 6 kg di eroina, non so, ci sono altri posti in cui metterle. Mutande, scusa. E tu che come fai a far stare 6 kg di eroina nelle mutande? Dipende da quello che le mutande dovrebbero contenere in assenza dell'eroina. Drago, cosa ti devo dire? Dipende dall'arbitro Moreno. E dalla poi sua dotazione adesso naturale. Adesso cos'è che c'hai sta roba dell'eroina? Cosa c'entra con l'infantilismo? Perché c'entra. Uno se la nasconde nelle mutande? Vabbè, anche quello. Però l'eroina è tornata d'attualità proprio per quello che ci riguarda, cioè sì, per l'uso che di questa droga si fa negli asili. Ma cosa dici? Certo, perché c'è stato un blitz delle forze dell'ordine all'asilo di Ri, vicino a Chiavari, e ha confermato un trend preoccupante, cioè sono state sequestrate con consistenti dosi di eroina nel giardino della scuola materna, hai capito? Sì. E a gestire il traffico erano due bambini spacciatori di 30 e 47 anni, perlomeno non siamo noi perché l'età non coincide. No, non coincide. Ecco, non si sa ancora se i clienti fossero i bambini dell'asilo stesso o invece, non so, eroinomani di altre zone della città che arrivavano lì e avevano appuntamento all'asilo. Però questa cosa mi fa pensare che anche alla Moratti, alla bambina Letizia Moratti, era venuto in mente di fare un decalogo per scoprire se i ragazzi si fanno le canne o meno. E quindi si potrebbe fare invece un decalogo, anche meno, un pentalogo. Per capire se i bambini dell'asilo si fanno di eroina o meno. Come potrebbe essere? 1. Aumenta drasticamente la presenza di bambini con occhiali a specchio tipo Lou Reed. Hey babe, take a walk on the wild side. 2. La ricreazione si fa più silenziosa. 3. L'appetito dei bambini diventa monodirezionale. Budinetti, budinetti, budinetti! 4. I disegni dei bambini si fanno sinistri. E questa è la mamma che però ha la testa dell'aragosta e poi sono questo io, sono il missile Terraria su Beirut. 5. I bambini fanno domande sorprendenti. Come faccio a far uscire l'aria dalla siringa? E cosa serve il limone? E posso scaldare l'eroina nel cucchiaino di plastica? Beh, accidenti, più che un pentalogo sembra il pentacolo. Cioè? O il pentagono. Il pentacolo, la cosa del diavolo, no? L'eroina. Ma non capisci proprio niente. Vabbè, comunque, se i vostri bambini all'asilo presentano uno di questi indizi, allora vuol dire che si fanno di eroina. Oh, che bella consolazione. E sul tema della droga negli asili abbiamo fatto qualche domanda al bambino Vasco. Beh, chi meglio di lui? Lui se ne intende. Lui canta le gesta della sua generazione di sconvolti senza santi né eroi. È un vizio ed è un brutto vizio, insomma. Quindi non vorrei che si facesse questa confusione tra sconvolti e drogati. Cioè, che invece sconvolto è una cosa, drogato è un'altra. I bambini dell'asilo stanno facendo casino. Ci vuole qualcosa per tenerli impegnati. Chiedo asilo. No, novità. Se tu molli il grano, è tutto lì. Tu lascia con cinquantina e quando c'è novità arriva. Ok, cosa vuol dire? Non lascio un cazzo neanche oggi. Ma, Albertuccio, ma che cosa? Traffici fai? No, scusa. È un amico. Ho visto un amico. È 2 anni che è fuori dall'asilo. Ho dovuto trovare Suor Dentona. Ho capito, ma non ho capito cosa hai detto. Porti il grano, cos'è che fai? Sì, portare il grano. No, perché qui abbiamo sentito, hai sentito la cosa dell'eroina a Chiavari? No. Spaccio di eroina no, qui, all'asilo. No, qui non è eroina. Ok, vabbè, non è eroina e cos'è? No, qui è hashish. Ho capito. Va bene, allora, e quindi presumo sia... quindi non ci sono spacciatori qua, ci sei solo tu che controlli. No, ma non è spacciatori. È questione di viene un amico che 2 anni che non vedo mi lasci il grano e ti lascio, cioè una roba. Vabbè, ma quello si chiama spaccio. Quindi preschi un disco? Se tu vai da un giudice e lui ti dice, beh, questo è spaccio. Ma io sono un bambino. Beh, ho capito, ma non si non può fare. Non sono neanche perseguibile. Bambino Albertanza, eccoci, allora siamo in onda. Ma basta, dai. Cosa? Alberto. Vabbè, dai, bambino, bambino Alberto. Allora, abbiamo parlato in trasmissione del grave problema della droga negli asili. Sì. La droga? Io non so nemmeno cos'è la droga. Ma, ma scusa, fuori onda, appena adesso abbiamo assistito a uno spaccio di hashish. Ma sì, come chi? No? Tu. Ma no, io non so neanche cos'è la droga, non sento parlare. Non sa cos'è, cosa dici l'hashish? A malapena che è una cosa che fa male. Vedi? È una cosa di adulti. Ecco, sì. Quindi questo asilo è pulito. I bambini non sanno nemmeno che cosa sia la droga. Vabbè, però Albertino, almeno non è che qualche volta qui vedi dei tipi sospetti, tipi strani che girano? Beh, tipi strani ce ne finché volete qui, eh. C'è lo storpio. C'è l'autistico, no, vabbè, c'è quello col piede ritorto, ma... e il piede porcino, no? Sì, ma vabbè, ma Alberto non stiamo parlando. Il diabetico. Vabbè. Stavamo parlando... No, guarda che stavamo parlando qui di... è come l'asilo di Guerre Stellari, eh? No, ma quale asilo di Guerre Stellari? Non c'era mica l'asilo in Guerre Stellari, Albertuccio. Vabbè, non c'era l'asilo, però c'era il bar della galassia, no? E c'erano tutti i mostri. Sì. Con i tentacoli, orribili, eh? Questo asilo è un po' così. Vabbè, ne fai parte anche tu. Allora, comunque, adesso posso andare a fare il mio sonnellino, eh? È già ora, dai. Con voi abbiamo finito, no? Sì, abbiamo finito. Vabbè, allora buon sonnellino. Buon sonnellino. Sulla droga, vabbè, hai detto un po' di palle, però buon sonnellino. Buon sonnellino, è una parola. A me non piace fare sonnellino. E allora perché ci vai? Perché Suor Dentora mi obbliga, no? Ah. Non è che posso dire oggi non ho sonno, non ho voglia di dormire. Perché Suor Dentora te lo dice a denti stretti, eh? Dormi! E se non dormi ti danno le goccine. Le goccine? Le goccine, dai. Perché Suor Dentora, questa bocca è una bocca aggressiva, Suor Dentora. Te le mette nell'acqua, no? E poi ti dice, bevi, dai, bevi un po' d'acqua. Io bevo, no? Però sento che ci sono le goccine. Perché? Perché lei crede che non abbiano sapore. Invece? Invece ce l'hanno, perché nel retrogusto al momento sembra di no. Ma poi in fondo senti quel... di amarognolo. E cosa succede dopo che bevi le goccine? E mi addormento. Vabbè, allora funziona. Vabbè, però non è mica giusto. No, sì, funziona. Cioè, o mi addormento o sogno d'occhi aperti, Fatto sta che comincio a vedere delle cose. A vedere delle cose? Tipo, vedo Woodstock, no? Woodstock, quella di Beppe Grillo a Cesena. Ma quale Beppe Grillo? Vedo Woodstock 69, no? Quello originale. Vedo Jefferson Airplane, vedo Jimi Hendrix, vedo Santana. Però scusa Albertello, ma tu lo sai che tipo di goccine sono quelle lì? Perché comincio a avere dei sospetti. Ma che ne so, mica mi fanno vedere la boccetta, no? Però bellissime. Eh sì, poi tra l'altro mi trovo anche a dialogare con persone importanti. Ma persone famose, tipo... no? È tipo Timothy Leary, no? Vabbè, ma bellissimo. Il dottor Hoffman. Ma... l'altro giorno William Burroughs. Ma dai, ma com'è possibile? Tu sei un bambino dell'asilo. Al massimo dovresti sognare ad occhi aperti, non so, un posto dove puoi mangiare tutte le caramelle che vuoi. Oppure un posto, un bosco in cui corri libero. Ma che fantasia libero, hai? Ma cos'è nudo? Nella natura, ma nudo. Cosa dici? Cos'è William Burroughs? Ma sei impazzito? Vabbè, cosa ne so io? Vabbè, forse qui all'asilo non bisogna aver paura degli spacciatori, ma di Suor Dentona che dà via queste goccine ai bambini. Ma Drago, non è vero. Ecco. Fanno benissimo a far fare delle esperienze psichedeliche anche ai bambini. Cosa stai dicendo? Ma certo, in futuro guarda che saranno dei manager migliori. Ma chi? I bambini, tutti, anche il bambino Albero Bello qua. Che Albero Bello. Va bene, per dire. Capito? La cultura psichedelica. Hanno cominciato i Grateful Dead. Lo sai chi sono i Grateful Dead? Sì, sì. Chi sono? Sono lo saprà tu lo sai. Bambino Certo che lo so. Chi sono? Grateful Dead. Jerry Garcia, vabbè. È psichedelia, eh? Psichedelia anni 60, una band che già negli anni 60 ha fatto business sui suoi merchandising, cappellini, magliette, eccetera, eccetera, e adesso quel tipo di filosofia di marketing la stanno applicando anche le nuove società di successo americane. Quindi copiano gli hippie degli anni 60 e funziona alla grande. E certo che funziona, Grateful Dead, vedi. Io parlo sempre con vecchio Jerry. Vabbè, ma è morto da 15 anni, sei diventato un medium. Ah no, saranno le goccine, no? Quelle goccine lì, Albertuccio, se magari te ne facessi dare una boccettina, le studiamo bene io e Drago. Le studiamo in che senso? Le analizziamo bene, le vediamo. Tu non ti preoccupare, le goccine, Albertuccio. Volete farvi anche voi trip psichedelici? No, dai, io no. Ma perché no, scusa? Ma no, ma scusa. I Grateful Dead. Noi siamo qui per fare i moralizzatori. Ma che è Lucy in the Sky with Diamonds? Cosa ci succede? Lucy in the Sky Albertengo. Ma basta, ma fate pena. Queste vocine, ma basta. Perché poi non sono neanche i Grateful Dead, sono i Beatles. Tutti più buoni, tutti più carini. torniamo domani. Mandate le vostre siringhe a chiedoasilo@radio24.it.